Liberazione Trans di Leslie Feinberg. Per comodità, ai fini di facilitare la comprensione, abbiamo deciso di declinare tutto al femminile. Nella versione scritta dell'opuscolo è tutto declinato al neutro con l'asterisco. Introduzione. La visione binaria uomo-donna ci costringe e ci ingabbia in schemi prefissati che ci impediscono di vedere liberamente la complessità di genere. Questo accade anche per la sessualità. Eterosessualità e omosessualità innescano meccanismi socialmente imposti da cui non riusciamo ad uscire. Nell'eterosessualità si dà per scontato che l'uomo sia il conquistatore, sia forte, mentre la donna sia la preda, sexy, per poter essere conquistata. Nell'omosessualità si crede che viga lo stesso ordine. Tra la coppia c'è sempre il più mascolino o la più mascolina e il più effeminato o la più effeminata. Insomma, due binari paralleli, ma che non si incontrano e mescolano mai, e che riportano tutto sempre alla questione maschio-femmina, maschile-femminile. Spesso ho assistito a scene di completa confusione quando ci si trova davanti ad una persona transessuale, transgender o genderqueer. Molte persone che si trovano di fronte ad una ragazza transessuale a cui piacciono le donne si chiedono: è lesbica? È eterosessuale? E perché allora ha cambiato sesso? Le persone trans, e abbrevio solo per comodità, provocano una totale confusione perché siamo abituate a un ordine prestabilito che ci insegnano da quando siamo nate. Da qualche parte dovranno pur stare. Uomo, donna, etero, omo, insomma, o bianco o nero. Ogni individuo va classificato, assegnato, impostato. Cosa faremmo se tutte noi fossimo diverse l'una dall'altra, senza regole e imposizioni? Saremmo incontrollabili per coloro che ci controllano, regolano e dominano. Un mondo rosa e azzurro è molto più facile da governare che un mondo costituito di mille colori e sfumature. Capite in quali gabbie ci hanno recluso? Siamo totalmente privi di una nostra idea, siamo una società che io chiamo la società degli stampellati, cioè di persone che camminano con le stampelle che ci hanno creato per non affidarci mai a noi stessi ma a qualcun altro. Stampelle che spesso ci guidano, a cui ci appoggiamo, ci affidiamo. Possiamo così credere di stare tranquilli, con le stampelle che ci salvano da qualsiasi incertezza, qualsiasi imprevisto. Un imprevisto è per esempio una persona trans, deve essere subito regolamentata, inserita nei codici di genere vigenti uomo-donna. Per abbattere le regole di genere e sesso, basta pensare che finora abbiamo visto solo i colori bianco e nero. La nostra cultura ha oscurato tutti i colori che differenziano le preferenze sessuali e ci ha detto che siamo solo uomini o solo donne, possibilmente eterosessuali. Ogni nostro gusto o preferenza deve essere etichettato, portando con sé migliaia di bollature e convinzioni. Troppo spesso vogliamo capire secondo schemi ben fissati. Uscire da tutto ciò vuol dire reinventarsi il mondo, la vita, le esperienze. Vuol dire che l'abitudine scomparirà e con queste le certezze che sono quella famosa stampella che ci rende tanto serene e tranquille, ma vuote e senza autodeterminazione. Pare che il sesso determini tutta la nostra vita, quando invece, se ci pensiamo, sono altre le cose che hanno determinato dei cambiamenti, per esempio un incidente, l'incontro di una persona, eccetera. È inutile schematizzare e sistemare, ci sono migliaia di sfumature e conoscerle, accettarle e discuterle ci aprirà e renderà più libere. Ogni giorno mi chiedo: perché il mio sesso biologico o le mie preferenze sessuali devono limitare me stessa e gli altri? Perché un solo colpo d'occhio mi inserirà nella categoria donna con tutte le spiacevoli conseguenze che si porta a questa costrizione sociale? Ho tradotto da un opuscolo francese del gruppo Vendredi 13 et la Petite Murène un estratto del libro di Leslie Feinberg, Transliberation. Leslie racconta un episodio di follia transfobica in un ospedale. Ne segue un'analisi dell'imposizione dei generi e un punto di vista di decostruzione. Leslie Feinberg ha un trascorso unico, forte. Vi consiglio di leggere il suo libro Stonebridge Blues, che prende spunto dalla sua vita burrascosa e difficile. Spesso nel leggerlo mi sono dovuta fermare per riflettere sulle sue parole, che entravano nel mio cuore con una forza straordinaria e sconvolgente. È una lettura per capire meglio il difficile percorso di individui che vogliono spezzare le catene e vivere liberi. Non condivido alcuni passaggi di questo opuscolo, in particolare quando parla di giustizia sociale, che può arrivare con cambiamenti di leggi. È vero che in passato certi movimenti hanno cambiato alcune cose, ma io la vedo come una manovra per calmare la forza di un cambiamento sociale che nasce dal basso. Questo però è un discorso assai lungo e che ha mille sfaccettature, per ora non mi sembra il caso di dibatterne. Nelle ultime righe dello scritto di Leslie si chiede come potremmo abbattere i codici sociali, come potremmo sbarazzarci di tutte le forme di discriminazione e amarci e tollerarci. Io credo che ancor prima di organizzarsi insieme, lottare insieme, ancor prima di combattere l'oppressione degli altri come fosse la nostra, dobbiamo aprire le nostre gabbie, distruggerle e così potremo fare il resto. Per la liberazione trans, per la libertà di tutte e tutti, apri ogni gabbia e comincia dalle tue. Liberazione trans, di Leslie Feinberg. Può essere che la visione codificata secondo i generi rosa-azzurro degli accessori e dell'abbigliamento per neonati ti dia i nervi. Oppure potresti benissimo essere una donna o un uomo che si sente a proprio agio nella sua categoria. Il movimento di liberazione trans ti difende in tutti i casi. Tutte le persone dovrebbero avere diritto di scelta tra le due categorie, rosa-azzurro, o in tutte le altre sfumature della tavolozza. Al giorno d'oggi questo diritto ci è negato, ma noi possiamo insieme farlo diventare una realtà. Ecco di cosa parla questo opuscolo. Io sono un essere umano cui piacerebbe non ci si rivolgesse in qualità di signora o signore. Preferisco usare dei pronomi di genere neutri per definirmi. Sono una persona che si trova in difficoltà nel momento in cui deve segnare con una croce F o M su un foglio amministrativo. Non ho problemi a dire che sono nata con un corpo biologicamente femminile e non mi identifico più da molto tempo in un sesso intermedio. Semplicemente non mi sento di continuare il concetto occidentale secondo cui dovrei identificarmi donna o uomo. Questa realtà ha gravemente influenzato il decorso della mia vita. Vorrei farvi un esempio pratico. Dal dicembre 1995 a dicembre 1996 stavo per morire a causa di un'endocardite, un'infezione batterica che alloggia e prolifera nelle valvole del cuore. Un semplice esame di coltura dei germi del mio sangue avrebbe immediatamente rilevato l'origine della mia terribile febbre alta. 8 settimane di antibiotici intravenosi avrebbero sradicato fino all'ultimo ceppo di batteri nei circuiti del mio cuore. Tuttavia, l'odio nei miei confronti da parte di certi dottori per poco non mi faceva morire. Mi ricordo che era una notte di dicembre ed io e la persona che amo siamo arrivate d'urgenza all'ospedale, in piena tempesta di neve. Avevo più di 40 di febbre, la pressione si alzava sempre di più. Il personale medico mi mise subito sotto gli apparecchi di controllo e cercò di farmi scendere la febbre. Il medico di guardia cominciò ad esaminarmi fisicamente, allorché si rese conto che la mia anatomia era biologicamente femminile. Mi rivolse un ghigno che la diceva lunga su quello che pensava. Senza smettere di guardarmi negli occhi, si avvicina a un'infermiera seduta davanti al tavolo degli strumenti e comincia a toccarle collo e spalle. Le parla di sesso per parecchi minuti. Dopo questa dimostrazione di sessualità normale, mi dice di rivestirmi e se ne va sbattendo la porta. Ancora attaccata a tutti i macchinari, mi dibatto per rivestirmi e cerco di rendermi conto di ciò che stava accadendo. Il medico torna quando mi ero rivestita. Mi intima di lasciare l'ospedale e di non rimetterci mai più piede. Io mi rifiuto. Gli dico che non me ne andrò finché non mi dirà perché ho la febbre così alta. Mi risponderà: «È perché sei completamente storto che hai la febbre». Il medico mi ha gravemente nuociuto, prendendosela con me in un momento così catastrofico, e tutto questo avrebbe potuto costarmi la vita. Sul certificato di morte ci sarebbe stato scritto endocardite, ma logicamente per me ci dovrebbe essere stato scritto fanatismo. Fuori dall'ospedale, ancora sotto shock, mi chiedevo a quante persone era stato negato il soccorso medico, anche persone gravemente malate. Alcuni, per la scritta «solo bianchi» appesa alla porta del pronto soccorso. Altri a causa di lesioni ben visibili di sarcoma di Kaposi che teneva lontano i medici dai letti dei malati. Mi ricordo che mia madre, negli anni 50, aveva una pitiriasi che non accennava a migliorare né a guarire e per il quale andò continuamente dal dottore. Egli finì per darle del Valium in quanto aveva deciso che mia madre era isterica. Quando mia madre si decise ad andare dagli specialisti, le dissero che il cancro aveva già attecchito il cervello. Il fanatismo innalza il suo tributo sulle poltrone e sul sangue. Se si lasciano irrisolti questi pregiudizi, finiranno per avvelenarci tutte. Ognuno di noi deve rivendicare il diritto a un lavoro, a una casa, diritto alla salute, alla dignità e al rispetto. Sono molto contenta di avere l'occasione di poter dibattere con te sulla questione di ciò che è vitale e anche di difendere il diritto degli individui a esprimere e definire come vogliono il loro sesso e genere. Per me è una questione di vita o di morte. Ma non credo abbia lo stesso significato per te. Per tutta la vita ti hanno detto devi essere un vero uomo o devi essere una vera donna. Possono esserci alcune cose che ti hanno urtato. Forse hai rifiutato il dogma che per essere una vera donna devi, per esempio, essere magra come un chiodo, che si emoziona e che deve stare al suo posto con tutti i propri compiti. Cucina, casa, figli. Tu sai che per essere uomo non serve essere pieno di muscoli gonfiati, non serve avere un coraggio innato o sapersi arrangiare con una sega elettrica. Tutte queste sono infatti caricature. Queste immagini fanno parte della cultura popolare, dell'educazione nel corso degli anni. Queste idee di come dovrebbe essere un vero uomo o una vera donna precludono la libertà di espressione individuale. Questi messaggi sul genere vanno e vengono come una giostra perpetua, come le pubblicità che non si possono far tacere. Nel corso degli anni ho assistito ad alcuni sollevamenti sociali che sfidavano queste dottrine sul sesso e sul genere. Ho partecipato all'ondata di liberazione delle donne negli Stati Uniti e ho visto cambiamenti nel modo di parlare e pensare nella gente sul significato di essere donna o uomo. Il movimento femminista degli anni 70 ha prodotto dei progressi straordinari, ottenendo riforme economiche e sociali decisive. Quella lotta portata dalle donne e dai loro alleati ha lanciato in avanti la coscienza umana come un pendolo. Questo movimento ha rimpiazzato i modi correnti e restrittivi della definizione di umano biologico con la parola donna e ha insistito con forza e fierezza. Le donne, che per la maggior parte erano prima isolate, si riunivano in gruppi di presa di coscienza. Le loro discussioni sulle radici dell'oppressione della donna e di come sradicarla ragionavano al di là dei confini entro le quali erano tenute a stare. Il movimento femminista parlò in modo massivo della devalorizzazione sistematica della donna, della violenza, della discriminazione che ogni donna subisce in questa società. Questa presa di coscienza ha cambiato il modo di pensare, sia per gli uomini che per le donne. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che queste discussioni non furono organizzate solo per parlare di oppressione. Le donne lottarono fino a portare un enorme cambiamento su come agire per combattere le abitudini misogine nelle istituzioni, combattere lo stupro, le violenze, l'illegalità dell'aborto, le discriminazioni sul posto di lavoro e nell'educazione e altri ambiti in cui le donne erano socialmente ed economicamente sfavorite. Fu un grande passo per l'umanità. Nemmeno il periodo di reazione repressiva politica che seguì riuscì ad abolire tutte le vittorie ottenute da questo movimento sociale. Oggi un nuovo movimento si affaccia, quello di liberazione trans. Noi poniamo di nuovo il trattamento sociale che subiscono le persone in funzione del modo di esprimersi in base al sesso e al genere. Questa discussione sarà l'occasione di nuovi contributi per le coscienze umane. La comunità trans, come il movimento femminista, sarà capace di combattere per la giustizia e di correggerne gli errori. Siamo un movimento di donne biologiche mascoline, di uomini biologicamente femminili, di uomini e donne transgender, di intersessuati, che sono nati in quel luogo di intervallo che c'è tra l'anatomia femminile e maschile, di gender blender, di molte altre varianti di sesso e genere e di altre definizioni che sono importanti per noi. Insomma, noi vogliamo allargare la visione dei modi di essere umani. Le nostre vite sono la prova che il sesso e il genere sono ben più complicati di quello che può determinare un colpo d'occhio di un medico in una sala parto. E molto più variato di un corredino per neonato rosa-azzurro. Siamo oppresse perché non rientriamo nelle ristrette norme sociali. Noi contrattacchiamo. La nostra lotta vuole rimettere in discussione il mito pieno di pregiudizi di ciò che significa essere uomo e donna e che ha influenzato e distorto la tua vita quanto la mia. La liberazione trans è un modo per poter esprimere e definire il tuo sesso e il tuo genere. Se sei una persona trans, sei esposta a punizioni sociali spaventose, dal carcere alle violenze di gruppo, alla violenza fisica, al vederti rifiutata la visita a nipoti, fratelli, sorelle, cugine. Questa brutalità, questa devalorizzazione ci priva di tutto ciò che potremmo realizzare nella nostra vita. Anche non ti identifichi come transgender, o transessuale, o intersessuale, la tua vita è comunque oppressa e potenzialmente ridotta a causa dell'oppressione che ci colpisce. Le tue scelte come uomo o come donna sono completamente mutilate. Il tuo itinerario individuale, così come la tua libertà di espressione, è tenuto diviso in due grandi solchi e il bagaglio sociale di cui puoi disporre è già stato assegnato, per l'uomo in un modo, per la donna in un altro. Difendere il proprio diritto come individuo di disporre liberamente del proprio corpo ed esplorarne i sentieri dell'espressione aumenta la libertà di scoprire più potenzialità. Questo movimento ti darà più spazio per respirare, per essere te stesso, per scoprire quello che significa essere se stessi in modo più profondo. Insieme possiamo creare una coalizione che possa combattere la tua e la mia oppressione e comprenderci. Lasciami dunque raccontare qualcosa in più di me. Sono un essere umano che spaventa certi altri esseri umani. Quando mi guardano, vedono un caleidoscopio di caratteristiche che si avvicinano a un uomo tanto quanto a una donna. Appaio come una matassa imbrogliata di generi. Mi prestano chiedendomi, uomo o donna? Poiché sono i due soli termini in cui la gente sa determinare una persona. Di che sesso sei? Capisco la domanda. Sembra così semplice, vorrei poter offrire una risposta altrettanto semplice. Ma rispondere a quella persona, uomo o donna, non risolverà la questione. Finché la gente tenterà di incastrarmi in due visioni, apparirò sempre un enigma. In verità non sono un mistero, sono una donna biologica più mascolina di quelle che ci propina l'immaginario nella cultura di massa. Milioni di uomini e donne non si trovano in quegli stretti scompartimenti del genere che ci hanno passato come naturali, normali. Per molti di noi, donne e uomini, signore e signori, lei o lui, tutto ciò non completa né la somma delle nostre identità né quella delle nostre oppressioni. Per quanto mi riguarda, la mia vita non diventa visibile se non quando non si aggiunge all'equazione la parola transgender. Chiedendomi se sono un uomo o una donna, non si risolverà l'indovinello. Prima che possa rispondere alla domanda del mio sesso alla nascita, trovo molto più importante discutere del perché la risposta debba per forza declinare per due sole scelte. Dovremmo avere uno sguardo critico su ciò che si costruisce all'interno della domanda apparentemente innocente: è un maschio o una femmina? Il ventaglio anatomico dell'essere umano non può essere compreso e ancor meno apprezzato finché uomo e donna saranno considerati come gli unici esistenti. È un maschio o una femmina? Ecco le due sole categorie autorizzate ad essere segnate sul certificato di nascita. Ma queste alternative non lasciano spazio alle persone intersessuate, nate in una posizione che sta tra l'uomo e la donna. I certificati di nascita sono cambiati per riflettere l'anatomia umana? No. L'establishment medico americano macina, trasforma, macella, con bisturi e ormoni, la complessità del bambino intersex, fino a renderlo uomo o donna. Un chirurgo decide se un clitoride è troppo lungo o un pene troppo piccolo. Ecco qui una decisione altamente soggettiva per chiunque, che decide del corpo di un'altra persona. Soprattutto quando chi prende la decisione è una persona ossessionata dalla chirurgia. E poi, qual è il criterio che dice che un pene è troppo piccolo? Troppo piccolo per un rapporto eterosessuale riuscito. I bambini intersessuali si vedono immediatamente imporre la loro sessualità e il loro sesso. Essi non hanno voce in capitolo su quello che viene fatto al loro corpo. Ma la domanda che viene posta a tutti i giovani genitori è un maschio o una femmina? Non è una domanda semplice se si tiene in considerazione la transessualità. Molti transessuali escono allo scoperto e dimostrano fieramente che gli individui hanno un senso profondo, sviluppato e fondato dal loro proprio sesso, che non sempre corrisponde alla decisione frettolosa di un ostetrico in sala parto. La transessualità non è un fatto recente. Ci sono persone che hanno subito o riassegnazioni di sesso sociale o hanno fatto dei cambiamenti di sesso chirurgico e ormonale durante il lungo corso della storia dell'umanità, orale e scritta. Una volta capito questo punto di vista di svariate complessità, di limitazioni di classificazione di nascita, non esito a dire che sono una donna biologica. Ma questa risposta non chiarisce per niente la confusione di chi mi chiede sei un maschio o una femmina. Il problema è che tentano di comprendere l'espressione del mio genere determinandone il sesso, ed è proprio là che si bloccano. La maggior parte di noi è cresciuta con il solo concetto di donna e uomo. I termini femminile e maschile sono i due soli termini che tutto il mondo usa per parlare delle complessità dell'espressione di genere. Il dogma rosa-azzurro presuppone che la biologia governi il nostro destino sociale. Ci è stato insegnato che nascere maschio o femmina andrà a determinare il nostro modo di vestire, camminare, determinerà la nostra preferenza su come avere i capelli, se rasati a zero o lunghi e ondulati, se saremo emozionalmente soddisfatti o repressi. Secondo questi termini, le donne mascoline cercano di sembrare uomini e gli uomini effeminati cercano di comportarsi come delle donne. Ma quelle come noi, che trasgrediscono questi opposti sui generi, distruggono la loro stessa inesorabilità. Allora, perché ogni tanto mi descrivo come una donna mascolina? Non sono limitativi questi due concetti? Certo, ma mettere questi due termini vicini è incendiario, fa esplodere la convinzione che l'espressione del genere è legata al sesso di nascita. Ecco la contraddizione sociale che è assente dai libri di scuola. Ora come ora sono stufa di descrivermi al maschile. La mascolinità è un territorio pesante da reggere, che ingloba le frontiere della nazionalità, della razza e della classe. Perciò non è facile declinare la complessità del mio genere come semplicemente maschile. Per me, caratterizzare l'espressione di sé semplicemente come femmina o maschio è come chiedere: scrivi in francese o in spagnolo? La domanda lascia da parte la possibilità che la poesia venga composta in cinese o in latino, in swahili o in esperanto. La domanda tiene conto solo delle lingue citate. Per questo sostengo che il genere non è altro che una costruzione sociale, una delle due lingue che impariamo meccanicamente dalla notte dei tempi. Per me il genere è una poesia che componiamo dentro di noi, partendo dal linguaggio che conosciamo. Non possiamo negare la rigidità dell'educazione ai generi, che comincia molto presto, dal codice rosa-azzurro alla classificazione secondo il genere dei giocattoli e dei giochi. Coloro che sconfinano da queste rigide frontiere sono severamente puniti. Quando il pugno di ferro si chiude, sono ossa che si rompono. Nessuno sa quante vite di persone trans si sono perse a causa della violenza degli sbirri o a causa di aggressioni transfobiche in strada. La vita di una persona trans è talmente sottovalutata che molte aggressioni non vengono nemmeno segnalate e coloro che sono sopravvissuti a questo odio ne sono usciti profondamente segnati. Le persone transessuali sono dei veri e propri fuorilegge. Ecco perché a volte mi ritrovo a voler semplificare l'espressione di me stessa come donna mascolina, butch, drag king, travestita. Questi termini sono fuorilegge, ma io lavo la testa fieramente tra i registri della polizia. Il termine fuorilegge non è esagerato. Sono stata buttata in cella dagli sbirri perché portavo un completo e una cravatta. Può un modo di vestire essere un crimine? Un abito è riservato agli uomini anche se sono io ad indossarlo? Il motivo per cui sono stata arrestata è freddo come le mura della cella dove mi hanno sbattuta. Sono considerata una donna uomo. Ecco qua pronta una violenza di genere. Altre mie sorelle drag queens sono state in cella per aver indossato abiti femminili. Alcune leggi ancora oggi parlano di travestimento come usurpazione di genere. Ma anche quando queste leggi non sono scritte, la polizia, i giudici e i sistemi carcerari hanno il potere di punire senza peccato chi deturpa l'ordine di genere e sesso. Credo che ci sia bisogno di levare le nostre critiche di come la repressione degli sbirri, i tribunali, le prigioni, come tutte le forme di razzismo e fanatismo facciano girare la macchina del sistema economico e sociale che governa la nostra vita. Ci sono dei compiti storici che ci fanno segno di prendere posizione e agire, e bisogna farlo adesso. Questo scritto è per te e si presenta come uno stimolo alla lotta contro tutto ciò. Cosa bisognerà fare per mettere fine alla violenza legale contro le persone trans? Come possiamo abbattere le leggi che codificano l'abbigliamento e il comportamento di donne e uomini? Come possiamo sbarazzarci di tutte le forme di discriminazioni transfobiche dovute all'ossessione dell'ortodossia di genere? Dove il movimento di liberazione del sesso e del genere entra in relazione con gli altri movimenti per l'uguaglianza economica e sociale? Come possiamo finalmente amare le nostre differenze e tollerarle? Come potremo smantellare quel filo spinato costruito tra noi e chi ci separa e spaventa? Come possiamo formare un movimento che possa creare un cambiamento profondo e definitivo capace di trasformare la società? Non si può rispondere a queste domande finché non ci organizzeremo insieme, pronti a lottare gli uni per gli altri, capire che l'altro farà di noi una persona libera, ansiosa di combattere l'oppressione degli altri come fosse la nostra oppressione. Siamo un movimento di donne biologiche mascoline, uomini biologici femminili, crossdresser, di uomini e donne trans, di intersessuati che sono nati entro un intervallo tra uomo e donna e molte altre varianti di sesso e genere e altre definizioni che per noi sono importanti. Insomma, noi allarghiamo la visione dei modi di essere umani. Per molti di noi le parole donna e uomo, signora e signore, lei e lui non completano né la nostra somma di identità né quella delle nostre oppressioni. Per quanto mi riguarda, divento visibile solo quando si aggiunge all'equazione il termine transgender.